Io quería preguntarte tu opinión sobre la razón por la cual el gobierno actuó de esta manera justo en aquel momento. Por ejemplo, si cambió alguna manera de luchar o cambió algo, porque justo ahora ocurrió este y no antes o no después. Perché è successo proprio. Sì, no, mi ha chiesto perché successe proprio in quel momento, in quel periodo storico, e non prima, non dopo, se per esempio cambiò la maniera di lottare o cambiò qualcosa nel movimento, allora il governo rispose in questa maniera. Bueno, yo creo que ya había ocurrido antes. Dejar sentado que antes del 26 ya había ocurrido 26.000 veces, que son las cifras de desaparecidos en México. Intanto va detto que questo era già successo prima, 26.000 volte, que la cifra dei desaparecidos que ci sono in México. Aquí la circunstancia particular es que se enfrentaron ante un grupo de personas organizadas. In questo caso quello che è cambiato è che sono scontrati con persone organizzate. O sea, frente a una escuela che già stava organizzata e già tenía relaciones previas. Contro una scuola che già era organizzata, già aveva legami stretti precedentemente. Ovviamente, nos hacen algo, no nos quedamos callados, y eso es lo que encendió la mecha, si se puede decir así. Ovviamente ci fanno qualcosa e non rimaniamo zitti, e questo è quello che ha acceso la miccia. Antes ya había habido muchas desapariciones, las familias habían denunciado, nadie las pelaba, o sea, nadie le hacía caso, ni siquiera el vecino. Prima c'erano state sparizioni, ma nessuno ci faceva caso, nemmeno la famiglia del vicino faceva caso alla famiglia che era scomparso. El gobierno mucho menos les hacía caso, porque eran poquititos, era una familia, dos familias, de un pueblo, de otro, aisladas, no organizzate. E molto meno lo faceva il governo, che si trovava a trattare con famiglie isolate, perse, di paesi dispersi. Io credo che eso es lo che cambiò la lucha in México, o sea, che hayamos sido un gruppo organizzato già e che già hayamos tenido contactos con abogados, con medios de comunicación, con otras personas que de inmediato dieron a conocer lo que había pasado y eso pues atrajo a la población. Questo è quello che è successo di diverso stavolta, che avevamo già legami con avvocati, con mezzi di comunicazione, e quindi ha allo stesso tempo attratto il resto della popolazione. E bueno, io credo che qui si applica la frasecita aquella de los niños quando dicen te voy a acusar con mi papà. Nosotros los acusamos con nuestros padres, al gobierno. Y hoy se enfrenta a padres de familia, no a chamacos en la calle. E quindi succede quello che noi diciamo, ti voglio accusare con mio padre, quindi noi è stato quello che abbiamo fatto, abbiamo accusato col governo. Quindi? Cioè. No, che è come quando i bambini dicono, ah, adesso vado a chiamare mio padre, perché tu mi fai un torto, e loro hanno fatto la stessa cosa, cioè siamo andati a accusare il governo con tutti i nostri genitori. Yo te quería preguntar, bueno, ya lo sé, pero creo que esté chido que lo compartes, pues un poco la forma de lucha que se desarrollaron después, ¿no? Porque sí hubo como una chamba más institucionalizada, digamos, toda la chamba con los abogados, los peritos, los expertos y todo eso, pero también hubo una lucha política muy fuerte, contundente, y pues... No, quello che gli chiedevo è che sarebbe interessante che parli un po' pure come si sono sviluppate, diciamo, qual è stata la reazione del movimento e di Ayotzinapa in generale in Messico, perché la lotta di Ayotzinapa non è stata solo una lotta di avvocati, non è stata solo una lotta di periti, di padri di famiglia che marciavano pacificamente, è tutta una serie di manifestazioni che in qualche modo rientrano nell'ambito della legalità, così chiamata legalità, e quindi secondo me sì, è interessante che condivida un po', diciamo, le esperienze più forti che ci sono state, perché pure, cioè, hanno accompagnato appunto tutta la parte più legaloide, insomma. Miren, muchos al principio nos invitaban a decir, ¿saben qué? Díganle al Estado, nada, contigo. O sea, al verdugo, no hablar con el verdugo. Molti all'inizio ci dicevano, smettetela di parlare con lo Stato, non ci parlate proprio, non confrontatevi. Pero al hacerlo, no íbamos a respetar a las familias, que eran las directamente afectadas. Pero facendo ciò non avremmo rispettato le famiglie che erano le dirette interessate. Porque en el caso de Ayotzinapa los únicos organizados somos nosotros los estudiantes, no las familias. Nel nostro caso non sono certo le famiglie chi ha organizzato, siamo noi gli studenti di Ayotzinapa. Nosotros somos los que tenemos visión política y sabemos cómo están las relaciones entre grupos en la sociedad o entre clases sociales. Los padres de familia no. Muchos hasta votaron por Enrique Peña Nieto. Noi abbiamo una visione politica, non i genitori di famiglia, noi sappiamo come si muovono le cose, mentre loro non hanno assolutamente esperienza. Alcuni hanno votato per questo presidente, per Peña Nieto. Entonces tenía que haber una especie de pacto, ¿no?, entre padres de familia y estudiantes. Quindi doveva esserci un patto tra studenti e padri di famiglia. Los padres de familia querían a sus hijos, o quieren a sus hijos de regreso, sobre todo ellos, más que cualquiera. Padri di famiglia vogliono le famiglie, vogliono i loro figli indietro. Questa è la loro prima richiesta. Las organizaciones sociales serias, si es que hay algunas en el país, querían la transformación del país a partir de lo que pasaba, o a partir de lo que pasó esa noche. Organizaciones sociales serias, si es vero que no existen, volevano la transformación social del país completamente, a partir de lo que sucedió quella notte. Por lo menos eso es lo que nos dijeron. O sea, como decir, el 26 de septiembre abre una coyuntura política e histórica en el país y hay que aprovecharla para romper con la sociedad actual o con el gobierno y hay que chingárnoslo. Algo así. Quindi almeno questo era quello che ci dicevano all'inizio, quindi che Ayotzinapa crea un precedente storico nello Stato per portare un cambio successivo nel paese. Y nosotros como güeyes no las creímos. E noi come idioti ce la siamo bevuta. Lo dico in queste circostanze per vedere se si intende meglio. Non so. Che lo dice qui per vedere se si capisce un po' meglio. O sea, decir, bueno, está bien, es cierto, no son 43, hay miles en el país, no solamente la desaparición forzada, hay más problemas, hay que ver cómo incluimos a todos. Quindi è vero, ce ne sono molti di più, non sono solo 43, sono migliaia nel paese. Bisogna vedere come fare a includere tutti. Come le decimos a todas las organizaciones que vengan, que platiquemos cómo le vamos a hacer para encontrar a nuestros compañeros, sí, pero también para garantizar que no se vuelva a repetir el hecho. Che gli ha detto a tutte le organizzazioni, sì, riuniamoci, parliamo per vedere come fare a trovare i nostri compagni, ma anche per creare delle garanzie che facciano sì che non si ripeta questo evento. Y unas 300 organizaciones levantaron la mano, dijeron yo voy con Ayotzinapa y por sus desaparecidos. Quindi 300 organizaciones han alzado la mano diciendo yo vado con Ayotzinapa para ritrovare i suoi desaparecidos. De esas 300 solamente quedan 36 actualmente apoyándonos. Y actualmente ne rimangono solo 36 veramente apoyándonos. O sea que las otras 264 se sentaron a negociar con el gobierno, lograron lo que querían y se fueron a su casita. Altri 264 sono seduti a negoziare col governo e poi una volta ottenuto quello che volevano se ne sono andati a casa loro. O sea, no querían transformar el país, querían aprovecharse de nuestros 43 compañeros, de la desgracia de los padres de familia y lograr sus objetivos particulares. Quello che davvero volevano era aggiungere i loro obiettivi specifici, no? Quindi cercare i nostri 43 compagni e cercare una trasformazione più profonda. Por eso decimos que fuimos idiotas en creer que iban a venir realmente a transformar el país, no? Per questo diciamo che siamo stati degli stupidi, degli stolti a credere che davvero tutte queste 300 volevano trasformare il paese. O sea, basado en eso, basado en todo eso, dijimos, bueno, no podemos ni siquiera renunciar a la vía legal, pero tampoco a la vía de la transformación. O sea, tenemos que ver cómo llevar de manera paralela las dos cosas. E per cui per questo abbiamo deciso che non potevamo lasciare la via legale, però avremmo dovuto anche ricercare un'altra maniera parallela per portare a capo la ricerca, la trasformazione. Bueno, porque renunciar a ir por la vía legal es como decir, bueno, renunciamos a que el Estado nos rinda cuentas y nos diga a dónde se llevó a nuestros compañeros. Se rinunciamo alla via legale è come dire rinunciamo a che lo Stato a un certo punto ci indica dove ha portato i nostri compagni, quindi a che ci debba una risposta. O non sé, pues si ustedes cuando alguien les choca el carro le dicen, no, pues ya vete, yo lo arreglo, ¿no? ¿Que no? Van a decir, vamos juntos a para que me pagues el choque, ¿no? Come quando ho fatto uno scontro in macchina, ovvio che non gli dite, sì sì, intanto vai e poi mi pagherai la botta. Andate insieme perché vi paghi la botta, insomma, perché non è giusto. Hagan de cuenta eso, pues sabemos que se los llevó el Estado y obviamente es el Estado el que tiene que buscarlos y entregárnoslos. Y eso solamente por la vía legal. Sappiamo che è stato lo Stato a portarli via, per questo dobbiamo aspettiamo la risposta da parte dello Stato, è lo Stato che ci deve rispondere e darci quella via legale. Pero mientras caminamos la vía legal también recorremos el país, conocemos a las organizaciones serias. Allá está una, en un cartel. ZLN. E mentre seguiamo quindi la via legale, continuiamo a incontrare organizzazioni in tutto il paese. Lì ce n'è una, ZLN. Entre otras muchas, ¿no? Que realmente iban a estar con nosotros y siguen estando con nosotros. Tra molte altre che continuano a stare con noi, che continueranno a stare. Y que se plantean precisamente transformar el país, no por la vía electoral ni por la vía legal, sino por otras vías, alternativas, abajo, horizontales, de varias formas, también hay verticales, pues, pero diagonales. Y que lo que vogliono que si propongo es proprio questo, es transformar el país, no per la vía de las elecciones, sino por otras vías, horizontales, diagonales, verticales. De todas las formas posibles, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo chido de este movimiento, que haya caminado en las dos partes, por respeto a los padres, pero también por respeto al movimiento social en general, buscar las dos cosas. Y quindi questo yo credo sia stata la cosa bella del nostro movimento, il fatto che seguiva le due vie, per rispetto nei confronti delle famiglie e poi per la volontà comunque di fare le cose insieme ai movimenti. Sì. También algo muy bonito del movimiento es que se incluyeron muchas personas no organizadas, o sea, gente que jamás había salido a la calle por algo, lo hizo en esta ocasión. Un'altra cosa bella è il fatto che molta gente non organizzata, gente che per la prima volta è scesa in strada e si è unita al movimento. Artistas, escritores, de todo tipo, pues, o sea, hasta religiosos andaban ahí. Artisti, scrittori, qualsiasi tipo di persona, perfino religiosi. O sea, cabrón, ¿cómo decirles? Pues, o sea, este movimiento fue tan incluyente. O sea, hubo miles de personas, rebasaban el número las personas no organizadas a las personas organizadas. Le persone non organizzate addirittura superavano il numero quelle organizzate. Y ahí la culpa fue nuestra, porque no supimos canalizar toda esa gente, decir, ahora pues vénganse, vamos a organizarnos. Así como llegaron, se fueron, porque nadie las incluyó. È stata colpa nostra perché non siamo stati in grado di includere tutte queste persone, così come sono arrivate se ne sono anche andate, perché non siamo stati in grado proprio di tenerli. E incluso il proprio movimento sociale, e questo abbiamo fatto una autocritica a nosotros, e le abbiamo fatto una critica al movimento nosotros mismos, de che fue il mismo movimento quien repelió a tutta esa gente. Ed è stato il movimento sociale stesso a respingere questa gente, quindi questa è stata anche un'autocritica che ci siamo fatti. ¿Por qué, Julio? Porque el movimiento en México y casi en todas partes es dogmático. Tú no, porque no estás organizado. Primero aprende a organizarte, después apúntate aquí con nosotros. Llévame el currículum. Exactamente. Debes traer cierto perfil. Es que esto sucede porque son movimientos dogmáticos, comunque. Porque si no sei organizado da prima, te dicen prima organízate, impara y poi ti segni sulla lista. E vieni anche tu. no solamente es dogmático, también es paranoico. A lo mejor tú eres infiltrado, mejor no. Sono anche paranoici, oltre che dogmatici. Magari pensano che sei un infiltrato, quindi ti dico infiltrato, ti dicono no. E io dico no, es dogmatico ni paranoico, es estúpido. E dico che non è né paranoico né dogmatico, è solo stupido. Además, no solo eso, hay una lucha de egos tremenda entre organizaciones y colectivos. Oltretutto c'è una lotta tra ego, tra collettivi e organizzazioni. Peleas entre dirigentes, peleas entre colectivos, por estupideces, por niñerías. Litigano tra dirigenti, tra collettivi, per stupidaggini, per cose da bambini. Eso es lo que descubrimos en el movimiento social. Y afuera la gente que no estaba organizada muchas veces tiene mejores propuestas que los que supuestamente tenemos años de experiencia luchando. E questo è quello che è successo, che spesso la gente che non era organizzata aveva addirittura proposte migliori rispetto a chi aveva anni e anni di esperienza nel movimento sociale. Además tienen un impulso nuevo, tienen ganas nuevas. Los que ya estamos, muchos de nosotros ya caímos en la rutina, caímos en lo de siempre, ya no innovamos. Oltretutto hanno stimoli nuovi, hanno più creatività rispetto a chi è lì da molto più tempo, che ormai segue una routine e non innova più. Discúlpenme por atreverme a decir esto, pero yo también he visto que no solo en México. Scusate, pero no solo, esto no sucede solo en México. Así en Bologna no sucede, no pasa nada. No te vamos a entender, Roma. Por nada. Pero bueno, no respondiste a mi pregunta, la verdad. A ver. Como que hablaba de praxis, así como acciones directas que hicieron. Pues perché è forte, cabrón. Cioè, gli chiedo cose concrete che sono successe, azioni molto forti che sono successe, che è interessante, perché in Italia non va a passare nada di questo, non va a passare ni de coña, no? A ver, en octubre, noviembre, diciembre, enero del año pasado y este año quemamos patrullas, quemamos edificios, madreamos policías, nos madrearon a nosotros, nos enfrentamos al ejército, tomamos un cuartel. ¿Qué más? Da ottobre a gennaio abbiamo bruciato pattuglie, auto della polizia, ci siamo picchiati con la polizia, ci hanno picchiato, abbiamo bruciato edifici. Istituzionali, chiaramente. Seggi elettorali. Un quartier. Preso una caserma, preso una caserma. E anche aeroporti, no? También quemaron las casas elettorali. Non sono passate le elezioni, dalle parti loro è andato fuoco a tutte le urne. Per esempio. O sea, sì, caminamos la via pacifica, la via del dialogo, pero también abajo siempre íbamos haciendo desmadre y medio, enfrentamientos tremendos que ni se imaginan. Continuavamo per quella via legale, però dall'altra parte ci scontravamo in un modo anche tremendo come non vi immaginate. E ustedes se podrán preguntar perché? Perché? Si eso no está bien, es pecado o algo así van a decir, no? E voi vi chiederete perché, questa è una cosa brutta, comunque è una cosa peccato. Perché stavamo incabronados y yo no he visto un padre de familia que no se atreva a defender a su hijo cuando lo están golpeando. Questo è successo perché eravamo arrabbiati, che non vedo nessun padre di famiglia, non ho mai visto nessun padre di famiglia che non difenda proprio figlio quando è attaccato. Todas esas cosas hicimos y créanos que el movimiento ha tenido mucha legitimidad para hacerlo, porque el Estado mexicano, hagan de cuenta que ni siquiera se atrevía, en los primeros 4 meses, ni siquiera se atrevía a poner policía enfrente. El movimiento ha avuto molta legittimità in questo, perché lo Stato messicano nei primi 4 mesi non si è nemmeno azzardato a mettere polizia a fermarci. Por eso le urgía dar su verdad histórica. Ya a partir del 27 de enero, cuando dieron a conocer la verdad histórica de Murillo Karam, ahora sí ya había policía cuando íbamos a protestar. Questo non è più successo dopo il 27 di gennaio, quando hanno dato la loro verità verità storica con Murillo Karam. A partire da quella data hanno messo la polizia contro di noi. Murillo Karam è il procuratore della Repubblica. Antes de eso, créanme que los padres hasta se quejaban de que les dolía la mano por tanto golpear policías. E che prima di quella data i genitori addirittura si lamentavano di quanto gli faceva male le mani per prendere a botte la polizia. No vayas a poner eso, nunca lo he dicho. No, eso se va a autoguerrar. Se va a autoguerrar. ¿Eso querías oír? No, pues es interesante que se sepa, porque si no parece una lucha ciudadana, como toda la lucha de toda la vida, y sí tuvo un impacto también en este sentido, ¿no? Pues creo que sea fundamental. Sí, pues fue chido, porque el cuartel, por ejemplo, derribamos la puerta con un tráiler de Coca-Cola. Fue todo divertente, porque, por ejemplo, en la partida militar, en la caserma, abbiamo rotto il portone con un camion di Coca-Cola. Immaginense la scena, nada más. Sí, con un carro, una transnacional al ejército. No sé si les suene divertido, no sé. Proprio con un camion di una multinazionale distruggere l'esercito. Suona un po' epico, divertente. Claro que después de allá para acá vino una pedrada y me chingó mi ojo, pero bueno. A seguito di ciò è ritornata una pietrata e mi ha fregato un occhio. Però questo è il prezzo. Questo è il prezzo. E más cose che nos potremmo commentare, una camionetta arrollando a tutti i poliziotti. Un auto schiacciando tutti i poliziotti, schiacciando, investendo un po' i poliziotti. Recentemente la repressione in Tixla, anche una buena golpiza en el túnel, el famoso túnel ahí. Los compañeros arriba del túnel echándole piedras a la policía hacia abajo. Recientemente c'è stato uno scontro su un túnel che c'è a Tixla, arrivando alla scuola, e i miei compagni sono messi sopra il túnel e hanno iniziato a tirar pietre alla polizia che c'era sotto. Y el ejército rodeando ya todo para golpear a los compañeros, pero cuando vimos eso corrimos, nos replegamos. L'esercito ha provato a cerchiarci, però noi quando abbiamo visto che iniziavano a disporsi ci siamo ritirati. Tutto questo. E bueno, non parlare di questo. A me mi avrebbe gustato in verità traer a Doña Berta, traer a Don Mario, o a altri padri e madri di famiglia che in verità ni si immaginano come hanno stato tutto questo anno forti. Quello che mi sarebbe piaciuto era riportare qui Doña Berta, Don Mario ad esempio, che sono dei genitori di 43, perché mi rendeste conto di quanto sono stati forti quest'anno, quanto hanno lottato, quanto sono stati, hanno resistito. E bueno, in onore a Doña Berta e a los demás, quisiéramos pedirles, por favor, che quando hablen de Ayotzinapa non nada más hablen de 43, también hablen de los tres que fueron asesinados. Porque ahí andan sus mamás, ahí andan sus familiares con nosotros. Y todos los movimientos, todos los colectivos, los olvidan a ellos como si no existieran. Oye. O sea que si ya te moriste, pues ya, valiste madre, ¿no? En honor a Doña Berta y a gli altri, vogliamo dirvi soprattutto di non dimenticarvi mai quando si parla di Ayotzinapa di 43, di parlare, ricordare anche quei tre morti che ci sono stati, perché anche tra i movimenti sociali sembra quasi che dire sei morto e come dire, ah vabbè, ormai sei passato. Es más, si hacen algún evento, una colecta, les pediríamos que se los enviaran a esas familias, a las familias de los asesinados. Ustedes dirán es que, bueno, te lo aviso. Soprattutto se fate altre collette o raccolta fondi, vi chiediamo di mandare questi soldi anche soprattutto alle famiglie degli assassinati. Muchos reclaman, dicen, bueno, si ya se murió, pues pídele al Estado tu indemnización. Molti dicono se è già morto ormai chiedi l'indennizzo allo Stato. Y es cierto, legalmente ya podrían pedir la indemnización, ¿no? No sé cuánto les vayan a dar. E legalmente a tutti gli effetti potrebbero chiedere l'indennizzo. Pero ni Doña Berta ni las otras señoras quieren dinero del Estado, eso sí se los puedo asegurar. Pero né Doña Berta ni altri signori vogliono soldi a parte dello Stato, questo è sicuro. Y ellos han dicho que no van a aceptar nada mientras no se sepa qué pasó con los 43. Y loro han dicho que no vogliono, no aceptarán niente fino a que no se saprà cosa es successo con los 43. Si eso no causa respeto, pues creo que este movimiento no tendría razón de ser. Si esto no suscita respeto, este movimiento no ha motivo de ser. Tengo una pregunta sobre esta desconfianza con el Estado, que además de seguir la vía legal para obtener una, por lo menos como una verdad sobre lo que pasó en los 43, pero esta desconfianza que hay siempre más grande, ¿no? Contra el Estado y sus prácticas y sus maneras de tratar estas cosas, investigaciones y... bueno, por lo que recuerdo, hubo como 20 y más de municipios ocupados y donde la alcaldía fue ocupada en el Guerrero y donde se impuso un autogobierno real, ¿no? Y por lo menos en el periodo de octubre, enero del año pasado. Y también como hubo un acercamiento muy fuerte con los zapatistas, con el Festival de las Rebeldías. Y bueno, una pregunta es si de verdad es fuerte este sentimiento de poder llevar a cabo una manera de organizarse que sea fuera de los mecanismos del Estado, ¿no? Y es un sentido, ¿no? de poder seguir fuera del Estado y si también como si estos municipios autónomos siguen existiendo y si además de lo que pasó en Guerrero en el país hay una mayor conciencia sobre una mayor desconfianza por respecto al Estado. Traduco velocemente. La domanda è rispetto a questa sfiducia nei confronti dello Stato, che nonostante poi continuino con col cammino, diciamo, legale, perché vogliono che lo Stato sia messo di fronte alle sue responsabilità rispetto alla morte dei tre e alla sparizione dei 43, se questa coscienza, diciamo, di poter fare a meno dell'Stato perché dello Stato non ci si deve fidare, che poi ha portato all'occupazione di più di 20 municipi, cacciandoci il sindaco e il consiglio municipale e rendendoli davvero autonomi nel periodo dell'autunno scorso, e poi aveva portato un avvicinamento con gli zapatisti, nel senso che erano stati ospitati al festival delle ribellioni contro il capitalismo che era stato fatto a dicembre del 2014, se questa cosa qua ha avuto una continuità, se questi municipi continuano a essere autonomi, se in generale al di là del Guerrero nel paese si è sviluppato, diciamo, questa coscienza di dover autogovernarci e non autogovernarsi e non farsi governare da uno Stato, da qualcun altro. Bueno, la desconfianza en el Estado mexicano está, por eso están junto a ellos los expertos y los peritos argentinos. La sfiducia nei confronti dello Stato existe ed è per questo che abbiamo gli esperti e i periti argentini. Por los resultados que han mostrado los peritos argentinos y los expertos de la Comisión Interamericana, solamente confiamos en ellos, no en el Estado. Con i risultati che ci hanno presentato i periti argentini e la Commissione Interamericana, confidiamo totalmente in loro, non nello Stato messicano. Rispetto alle visite all'STLN e demás, pues solamente fu un sector de los padres de familia, doña Berta soprattutto, la comandante Berta, novia di Moisés. Con rispetto a quanto riguarda la visita all'STLN, solo è stata accennata una delegazione di padri di famiglia, tra cui Doña Berta. Miren, los 27 municipios tomados. Che 27 comuni occupati, municipi occupati. Los tomó el movimiento social de Guerrero. Li ha occupati il movimento sociale del Guerrero. O sea, los maestros, por ahí otros señores que no se plantean la transformación del país. E sono stati maestri o altri signori, persone che non si propongono comunque la trasformazione sociale del paese. O sea, los tomaron simbólicamente los grupos de presión. así se les llama, ¿no? Grupos de presión. Sono stati occupati simbolicamente da gruppi di pressione, così si chiamano. E in quanto obtuvieron sus demandas, lo soltaron? E nel momento in cui hanno ricevuto risposta alle loro domande, alle loro richieste, li hanno lasciati, li hanno liberati. O sea, esa toma de 27 municipios, yo sé que a muchos los entusiasmó, no mames, autonomía, autogobierno y tantas cosas más que se van a hacer. Molti sono entusiasmati quando hanno occupato questi 27 municipi, pensando subito all'autonomia, all'autogoverno, chissà cosa faremo. Claro que Ayotzinapa, desde Ayotzinapa se planteó el consejo municipal en esos municipios. Da, a partire da Ayotzinapa si è stato pensato, progettato il consiglio municipale che poi si è attuato in quei municipi. Algo mucho más amplio, más participativo, democracia más directa, en aras precisamente a lo que ustedes se imaginaron desde el principio. Qualcosa che fosse molto più ampio, più inclusivo, sì, più partecipativo. Però come les digo, los 27 municipios fueron tomados por maestros, por otros grupos que solamente buscaban presionar al gobierno para negociar luego. Questi 27 municipi sono stati occupati solo da persone che avevano in mente di creare pressione nei confronti del governo. Por lo menos yo, desde mi punto de vista, por ahí escribí a los 9 meses un artículo en el cual pues lancé una crítica muy fuerte contra el movimiento ahí en Guerrero. Trascorrei 9 mesi, ho scritto un articolo a proposito di questo in cui lanciavo una critica molto forte al movimento sociale in Guerrero. Precisamente porque yo calificaba como una derrota total, o sea, si ya tenías 27 municipios, ¿por qué no plantearte de una vez la transformación? Per me era stato un fallimento quello, nel momento in cui tieni 27 municipi in mano, perché non programmare a quel punto una pianificazione molto più ampia? O sea, la legittimità estaba, cabrón, en Guerrero ya hay policía comunitaria, ni siquiera se planteó la extensión de las comunitarias a esos municipios. In Guerrero già esistono le polizie comunitarie e non si è neanche pensato a estendere, ampliare le polizie comunitarie in quel caso. Por lo menos si nuestra voz hubiera sido escuchada en las asambleas donde se discutía qué hacer con esos municipios, créanos que se proponía, pues órale güeyes, hay que formar policías comunitarias, hay que echar a andar educación alternativa, consejos municipales o más cosas, ¿no? Pero pues esa no era la intención. Se ci avessero ascoltato in quel momento in cui c'erano stati questi municipi occupati, ovviamente avremmo proposto qualcosa di più ampio, educazione alternativa, polizia comunitaria, ma non è stato così. Esas son las grandes derrotas del movimiento social en México. E questi sono i grandi fallimenti del movimento sociale in Messico. Teníamos 27 municipios y los dejamos ir. Avevamo in mano 27 municipi e li abbiamo lasciati andare. Eran nuestros. Che è questa polizia comunitaria? Che potere tiene? Cos'è la polizia comunitaria? Ah, la polizia comunitaria è surgió en 1993 in Guerrero. È nata nel 1993 in Guerrero. Por la inseguridad y por... Pues sí, por la inseguridad en el estado, en municipios del estado. Si è formata a causa dell'insicurezza che si viveva nel municipio e nello stato. Stato di Guerrero. Sí. Las personas se decidieron tomar las armas para combatir la inseguridad en sus territorios. Le persone sono armate per combattere l'insicurezza che si viveva nei loro territori. Al principio dijeron vamos a trabajar para el gobierno, o sea, vamos a tomar presos a los infractores de la ley. Y se los vamos a entregar a la policía, al Estado. Inizialmente dicevano che avrebbero arrestato chi infrangeva la legge per consegnarlo allo Stato. Así lo hicieron, pero el Estado a los 2-3 días dejaba libres a los presos y volvían a hacerla peor todavía. E facevano così, solo che respinto subito lo Stato dopo 2-3 giorni rilasciava queste persone, continuavano el loro crimen. Entonces esos campesinos que se armaron contra la inseguridad dijeron vamos a hacer justicia también. Y perciò questi contadini che sono armati contro la sicurezza si sono detti facciamo giustizia. Vamos a construir nuestras propias cárceles, nuestras propias casas de justicia, así le llamaron. costruiremo le nostre carceri, le nostre case di giustizia, così le chiamano. O sea, nosotros vamos a hacer los juicios a los presos y les vamos a aplicar nosotros los castigos a ellos. Noi faremo, giudicheremo queste persone e applicheremo le nostre pene. Y no los metían en la cárcel. E non li mettevano in carcere. Bueno, dormían en la cárcel nada más. Dormivano solo. Decían, si robó una vaca cuesta 5.000 pesos. Se ha rubato una mucca costa 50.000 pesos. Y el salario mínimo de un campesino son 50 pesos por día. El contadino guadaña 50 pesos al día, al giorno. O sea que va a trabajar tantos días hasta que cumpla con los 5.000 pesos de trabajo. 5, no 50.000. 5.000 costa la mucca, non 50.000. Se no il contadino si passa 8 la vita a lavorare per... E quindi questa persona avrebbe dovuto lavorare tot giorni quanto per ripagare quella mucca. E così credermi che non les quedava ganas di rubare. E così ci passava la voglia di rubare. Perché lo scaricavano da un lavoro a altro lavoro, a fare una scuola, ir con questo campesino, ir con l'altro. Perché li muovevano da un lavoro all'altro, li portavano da una scuola, da un contadino, da un altro contadino, a svolgere il lavoro. Eso era la policía comunitaria al principio. E questa era la policía comunitaria all'inizio. Ahora existen como 100 policías comunitarias. Ahora existen centinaia di policía comunitaria. Hasta los narcos crean policías comunitarias. Perfino el narco riesce a crear policía comunitaria. O autodefensas. Autodefensas. Como en Michoacán. Como en Michoacán. Que en realidad las utilizan para combatir a los grupos del crimen organizado contrarios, pero para controlar ellos. Que en realidad son usados para combatir a otros grupos criminales contra los intereses, contra ellos. O sea, son criminales vestidos de policía comunitaria o de autodefensas. Aquí son de fatto criminales vestidos de policía comunitaria o de autodefensas. Eso es en la actualidad. Pero no todo, tampoco quieran pensar que todos los comunitarios son eso, ¿eh? No son neanche tutti i policía comunitaria così, obviamente. Obviamente no, obviamente los grupos originarios permanecen tal cual eran. Solamente que hay otros grupos que se hacen pasar por comunitarios o por autodefensas. I gruppi originari rimangono tali. Ci sono altri gruppi che invece si fanno passare, si fanno credere autodefensas o policía comunitaria. Y bueno, todos los originarios se basan en el artículo 69 de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 2 de la Constitución Mexicana, donde cada quien tiene derecho a defenderse. ¿Y todo se basa en el artículo 69? 169 del lavoro e sull'articolo 2 che parla del diritto alla difesa, legittima difesa. Sulle reazioni internazionali rispetto a quello che è successo, cioè qual è il giudizio che dai o che date da dentro? Se la sensazione che si ha è che le mobilitazioni si sono registrate, però chi politicamente poteva fare pressione, insomma, almeno. A pressione politica? Sì, c'è la sensazione che si ha, che è più di una sensazione in realtà, è che se la società civile o le realtà di movimento, insomma, hanno spinto su questa questione, su un piano di politica più istituzionale, pare che si sia fatto molto poco. Mira, lo che si hizo a livello internazionale, io credo che fue clave para que la Commissione Interamericana, para que los argentinos, para que la investigación llegara a este punto. Quello che è stato fatto a livello internazionale è stato fondamentale affinché la Commissione Interamericana, i periti argentini arrivassero a questo punto. que vimos es que había mucha gente, muchos movimientos apoyándonos afuera. Hemos visto que son stati molti movimenti, mucha gente que da fuera ci ha apoyado, ci ha sostenuti. Es más, muchos diplomáticos, muchos representantes legales de los estados se manifestaron a favor de que el caso se resolviera. Molti diplomatici sono espressi a favore affinché questo caso si risolvesse. En México y en particularmente en todo el tercer mundo es difícil que, no sé, ¿cómo se llaman? Eurodiputados, digan algo respecto a un caso. En México, como en todo el tercer mundo, es difícil que un eurodiputado diga qualcosa, si esprima a favor de una cuestión de este género. Por ejemplo, solamente en Estados Unidos, 81 senadores se manifestaron en contra de el presupuesto tan alto que le estaban dando a México por el Plan Mérida. En Estados Unidos, 81 senadores se han manifestado contra el financiamiento alto, troppo alto que estaban dando al Piano Mérida. Esto fue en agosto de este año y pues solo por eso le quitaron 5 millones de dólares. Un poquito, pues, pero. Ad agosto di quest'anno per questo gli hanno tolto 5 milioni di dollari, è poco però gli hanno tolto. Claro che eso non nos ha interessato. Che è il Plan Mérida? Il Plan Mérida è il asesoramiento, il armar a México e darle dinero para che combatta la delincuenza organizzata. Quindi il finanziamento da parte degli Stati Uniti a Messico perché affinché combatta il narcotraffico, la criminalità organizzata. In realtà noi lo vediamo come più morte, più disapparizioni, più despojo. Per noi questo è più disapparizioni, più morte, più spoliazione. Plan Mérida e Plan Colombia è uguale. Dire Plan Mérida o Piano Colombia è la stessa cosa. Bueno, tengo que explicar los dos. Te metiste tú solo, ¿eh? Sí. Diciendo Plan Mérida. Y autodefensa. Bueno, eso respecto a los chingados eurodiputados y senadores, pero no nos interesaba tanto eso realmente. Esto es respecto a los eurodiputados, pero no nos interesaba mucho. Por ejemplo, los franceses que se manifestaron supuestamente a favor, algunos, el 14 de julio recibieron a Enrique Peña Nieto como invitado de honor en su desfile. Ad esempio, i deputati francesi che tanto si erano espressi a favore all'inizio, il 14 luglio hanno accolto Peña Nieto alla parata d'onore del 14. En la cumbre de la Unión Europea, un mes antes, en Bélgica, Enrique Peña Nieto fue uno de los, fue el que encabezó esa cumbre. La riunione è stata il mese prima in Europa. Peña Nieto è stato colui che ha guidato, diciamo, questa riunione. O sea que a nivel institucional, a nivel de los estados, les urgía respetar y volver a, no sé, ¿cómo? Devolverle la imagen che tenía Enrique Peña antes del 26. A livello tra stati quello che urgeva di più era ridare al Messico questa, diciamo, legittimità. Digo, a los países europeos les interesa hablar de derechos humanos, pero para poder negociar algún otro tratado económico. Non gli importa di parlare di diritti umani solo per negoziare con quanto riguarda altri trattati economici. Le suben el tono a los derechos humanos para que México les afloje otra cosa. Quindi gli sgridano Messico sui diritti umani affinché Messico diciamo molli da un'altra parte, quindi i trattati economici. Sin albur, no. Sin albur, digo. Non sale all'albur. No. Già. ¿Cualquier otra pregunta? Sí, dos preguntas. Primero, si nos podías contar algo sobre la escuela normal rural, porque como decíamos antes, como no tenemos algo tal vez parecido. Aquí en Italia no sabemos muy bien de qué se trata, o sea, cómo funciona, cómo, qué es una escuela rural normal. Y segundo, si después de estar aquí en Bologna vas a ir a otras ciudades también, o si vas a volver a México, si vas a estar en otras ciudades en Italia. Bueno, después de Italia, voy a Basel, a Suiza, a Düsseldorf, en Alemania, y en Ámsterdam. Y en París también, ahora que me acuerdo. Pero en Italia solamente es acá. Respecto a la normal rural, pues... Ay, ¿cómo decirlo? Ay, ¿es traduce, no? Farà anche, dopo questa data sarà anche a Basilea, a Düsseldorf, a Parigi e a Amsterdam. E México. Dopo México. Y bueno, respecto a la normal rural, pues cómo decirlo, son escuelas que son... ¿Cómo decirlo? A ver, en nuestra escuela hay internado. Y hay tierras para cultivar. En la loro escuela, en la escuela normal y rural, ci sono internato, si dice. Cioè, ci sono le persone che vivono lì, credo. Ah, cioè, sì, vivono lì, dormono lì, stanno lì. Comedor, tierras. C'è la mensa, ci sono campi. Conejitos. Conejitos. Pollos. Molli. Vacas. Todo eso para cultivarlo y para que no se limite solamente al programa de estudios, sino también al trabajo en el campo. Questo per far sì che non si limiti tutto al programma di studio, ma si possa anche lavorare nel campo. Porque la idea es que el maestro rural se va a ir a las comunidades rurales con los pobres. Questo perché il maestro rurale, finiti gli studi, tornerà alle comunità rurali, quindi con tra i poveri. Y obviamente en las comunidades rurales hay que enseñarle a los campesinos nuevas técnicas de trabajo, nuevas técnicas de cultivo, etc. Quindi ai contadini bisognerà insegnare nuove tecniche di lavoro, nuove tecniche di coltivazione. Hay materias extraoficiales. Ci sono materie fuori dal extra. Estudiamos marxismo. Marxismo. Estudiamos el anarquismo. Entre otras cositas de esas. Cositas. ¿Ya? Tra le altre cose, sì, studiare il marxismo, l'anarchismo. Sì. También a veces llevamos a unas enfermeras, bueno, a unos doctores o algo que nos enseñen a inyectar. En las comunidades rurales hay que inyectar a la gente a veces. A volte vengono delle infermiere per insegnarci a fare punture, perché nelle comunità può succedere che serva a fare punture. Y es muy variado el estudio, pues, o sea, no se limita, vuelvo a repetirlo, al curso o a las materias que señala el curso que establece el gobierno. Es un curso muy amplio, quindi no se limita a satisfacer solo lo que establece el gobierno, quindi materia de estudio. Obviamente, cuanto más amplio es tu horizonte, pues más crítico te vuelves. Y più amplio el tu horizonte, più diventi crítico. Y por eso, pues, las normales rurales como que ya no son compatibles con la educación actual. Es por eso que las normales rurales no son más compatibles con la educación actual. No puedes salirte de... No son compatibles, pues, con el lugar donde quieren poner actualmente a las personas del sistema. No son compatibles con los lugares en que quieren colocar a las personas al interior de un sistema. El sistema dice, tú vas a trabajar aquí y ni te quejes. La escuela nuestra dice, pues, trabaja aquí, pero si no te gusta, pues quéjate. El sistema te dice, lavorerai lì e non ti lamentare, mentre la nostra scuola dice, sì, lavorerai lì, però ti puoi anche lamentare. Eso es una normal rural. Más o menos. A veces. A veces. No, sì. Poi tipo le normali rurali l'ha fondate sto Lazzaro Cardenas, che era tipo un presidente anni 30, socialista più o meno, che ha fatto sta cosa importantissima in Messico, che tuttora se ne notano, diciamo, gli strascici, che è la riforma agraria. La riforma agraria praticamente dava al popolo, ai contadini, dava delle terre comunitarie, non private, che appunto nessuno aveva la proprietà, l'unica cosa che stabiliva la proprietà di questa terra era il fatto che tu la lavorassi in collettività, no? Quindi non la potevi lasciare in eredità, eccetera, eccetera. Diciamo, in tutto questo programma ampio legato ai contadini, che era la maggior parte della popolazione messicana all'epoca, c'è sto piano delle scuole normali rurali. Ne apre una trentina, mi sa, all'epoca, 35 così, in vari stati della Repubblica, quelli chiaramente più meno urbanizzati, insomma. E praticamente la sua idea è che il contadino dalla comunità sperduta in culo ai lupi potesse arrivare in un centro e formarsi e sulle tecniche cioè, di campo, insomma, sia pure teoricamente. E una cosa importante lui non ha detto, per esempio, lì si insegna in lingua indigena, cioè uno dei presupposti perché tu possa e frequentare la scuola e portarla avanti è che tu sei un indigeno, che perlomeno una lingua indigena la parli, se non due, tre, quattro, perché nella zona loro parlano 5-6 dialetti, diciamo. E quindi ci sono sti presupposti. Cosa che fa la scuola normale rurale di Ayotzinapa così fastidiosa e così cacacazzi, loro che sono tutti maschi, tra l'altro, perché è solo maschile la scuola. Le scuole normali rurali storicamente, soprattutto negli anni 60-70, sono state, diciamo, la scuola pure politica di una serie di guerriglieri importantissimi in quegli anni, in particolare Lucio Cavagnas, che è un figone, e Genaro Vázquez. Chi? Lui non lo conosco. Vabbè, comunque, fatto sta, da queste scuole, fondamentalmente dentro quelle scuole si sono formati da ragazzetti i futuri guerriglieri, che poi una certa lo Stato messicano faceva lo schifio nello Stato di Guerrero, espropri, miniere, merdate varie, nascono una serie di guerriglie che cominciano a attaccare in maniera diversa lo Stato messicano, in particolare la guerriglia di Lucio Cavagnas è stata molto hardcore, e praticamente da lì comincia un periodo nerissimo per la storia del Messico, che è conosciuto come guerra sucia, la guerra sporca, che praticamente è tipo l'Argentina di Pinochet, il Cile di Pinochet, piuttosto che l'Argentina di Batista. Quindi grosso potere dato ai soldati, sparizioni forzate, sequestri di persona, gente buttata in mezzo al mare, tutte quelle grandi pratiche che insegna l'Accademia de las Americas, che è la scuola militare da dove sono usciti tutti i peggio generali, poi statisti e in alcuni casi pure presidenti del Latino America. E diciamo il Messico, dicono così, cioè questo modo di dire, mo mi sfugge, com'è questa maniera di sir tan cerca del paraíso, l'inferno, con rispetto ai Stati Uniti? Tanto lontani da Dio, tanto vicini agli Stati Uniti. Cioè comunque chiaramente la presenza degli Stati Uniti è pesissima in Messico, e cioè, mi faceva sorridere questa cosa che diceva lui, che gli tolgono 5 milioni di dollari sulle operazioni militari contro la delinquenza organizzata, quando poi le armi, e che usano i militari, e che usa la stessa delinquenza organizzata, sono americane. Piuttosto che i paramilitari, chi li comanda, si sono formati o in qualche modo sono usciti dalla formazione militare americana, piuttosto che un caso proprio tosto è quello degli Zetas, che sono saltati alle croniche da un po' di anni, che è questo gruppo paramilitare che all'inizio nasceva come, diciamo, braccio destro del cartello del Golfo, che era una delle più grosse organizzazioni delinquenziali in Messico, e praticamente loro erano il braccio destro di sta cosa così. Poi quando sono diventati talmente forti, a un certo punto si sono fatti il loro cartello, hanno cominciato a fare le peggio zozzate, teste mozzate, gente appesa a testa in giù, che è la quotidianità in Messico ormai, non ci fanno manco più caso. E questi erano tutti ex militari di corpi speciali, ancora una volta formati negli Stati Uniti, fuoriusciti dall'esercito messicano, che hanno cominciato a fare lo schifio. Quindi fondamentalmente quello che dalla mia percezione sta succedendo in Messico, e che è molto pilotato e da fuori e da poteri forti interni, è fondamentalmente destabilizzare un paese che resiste, continua a resistere in ogni dove, perché c'è ancora molta presenza indigena, a parte contadina, indigena, che indigena significa che questi stanno come prima degli spagnoli in molti casi, quindi da paura, e fondamentalmente dove stanno gli indigeni, guarda un po', e dove succedono le peggio storie, lì ci sono miniere, c'è l'oro, c'è l'acqua, ci sono i paradisi turistici e ci sono i grandi interessi e ci sta il petrolio e ci stanno i glass e ci stanno un sacco di cose, che guarda un po' dove stanno queste cose, in Messico c'è lo schifio. E qui lascio dei punti sospensivi, ognuno faccia i suoi conti, giusto perché è un po' lenta traduzione, così, cioè già un paio di volte avevo voglia di come tirare un attimo le righe, perché comunque quando, cioè chi è stato giù, io ci ho passato un bel po' di anni, cioè quando torni qua o ti tiro un pippone che finiamo dopo domani, perché poi veramente esce il plan Colombia, che è questo, è il plan Merida, che era quell'altro, la polizia comunitaria, e finisci che parli di tutto e a volte di niente, no? Cioè io tendo solitamente a semplificare, a volte banalizzi pure, però perlomeno uno se ne va da qua con un'idea un pelino più chiara. Poi se si vuole informare, ci sono un sacco di pagine, vi consiglio per esempio in italiano Carmillo Online, che c'è Fabrizio Lorusso, che è un compagno, cioè comunque lui è un professore universitario, compagno. Abbiamo invitato anche... Che, cioè lui fa un lavoro incredibile sul Messico, tutta la questione di Ayotzinapa, brogli elettorali, come un sacco di cose di denuncia, almeno in lingua italiana. Noi avevamo una pagina che si chiamava nomads.endivia.net, che però non si aggiorna da un paio d'anni, eppure lì si trovano un pochetto di robe. In realtà il nodo solidale di Roma pure c'ha un po' di... cioè si può seguire, chiaramente in spagnolo fai molta meno fatica, in italiano un po' meno. Diciamo sul Chiapas c'è abbastanza attenzione, per dire, ma in realtà poi ci sono 31 stati in Messico, ognuno con la sua storia, le sue lotte, cioè veramente ce ne sarebbe per giorni e giorni. Guerrero giusto fa capire da dove viene lui, dove è successa la roba di Ayotzinapa. Diciamo ufficialmente, dai dati istituzionali, è il terzo paese più povero al Messico. Io ci sono stato e secondo me è il più povero in Messico, cioè che veramente si fa fatica a fa tutto, a spostarsi, a trovare varietà alimentare, a trovare una scuola, a trovare un pulmino, qualsiasi cosa diventa complicatissima. Ed è uno stato dove, ancora una volta, guarda un po', ci sono un sacco di ricchezze naturali, uno stato che volutamente, come la Calabria da noi, è stata lasciata all'abbandono totale, perché fa comodo che sia così, fa comodo che lì non ci arrivi nessuno, perché così possiamo continuare a fare quello che vogliamo fare. E solo che quello che lì si era venuto a creare era una violenza di questi gruppi più o meno criminali, con il beneplacito delle istituzioni, ci hanno cominciato a fare lo schifio, perché fin quando tu fai brutto a chi soldi c'è là, bella storia, però quando cominci a far brutto e mi rubi la gallina all'asciura, mi violenti la bambina, mi ammazzi il ragazzetto, ti sequestro il vicino, lì chiaramente il contadino dice, vabbè, io la caccio la scoppetta degli anni 60, motivi gli ho scoppettate, no? Un po' i briganti da noi. E più o meno è questo un po' il contorno culturale che... cioè, soprattutto nello stato di Guerrero è molto molto forte, c'è una grossa coscienza, diciamo, collettiva, che con questa roba di Ayotzinapa poi è venuta fuori, tant'è che è nato sto movimento, chiaramente con tutte le sue contraddizioni, un movimento popolare che ha fatto un bordello della Madonna per 3-4 mesi, a me non interessava la spettacolarizzazione del palazzo di governo e bruciava, pure se un ghigno mo so fatto, però è interessante che della gente normalissima sia andata a pizzare il palazzo di governo, chiaramente pure coi compagni, no? Piuttosto che le elezioni le hanno evitate tutte, mica le hanno evitate solo i movimenti, piuttosto che i municipi si sono occupati tutti, mica solo i movimenti. Come c'è un'eterogeneità in cui chiaramente il movimento fa la parte più tosta, però cioè, comunque ti porti dietro tanta gente pure tra virgolette normale, no? Io volevo dire una cosa giusto per cogliere quello che stava dicendo Marmo sul fatto che già il fatto di essere presenti qui dia un segnale. Non so, a Bologna stiamo cercando di ricostituire un nodo che metta al centro le questioni della relazione col Messico, della solidarietà con i movimenti, un nodo che sia aderente alla sesta dichiarazione della Selva Locandona, e niente, lì c'è un quaderno in cui si potrebbero lasciare delle email in caso che tutto questo davvero riesca, o che si lancino altre iniziative per chi fosse eventualmente interessato. Eh, Non so se ci sono anche altre domande che... Ma io ho una curiosità, perché prima avevi detto che quando erano stati occupati i municipi da questi gruppi di pressione, alcuni di questi erano formati da maestri che però hanno, come dire, a un certo punto ripiegato rispetto alla possibilità di fare degli esperimenti di autogoverno, di gestione più radicali. Volevo sapere un po' che ruolo hanno avuto i maestri e se ce l'hanno avuto rispetto ad aiuti Napa, nel senso che la figura del maestro, e anche sentire un po' sulla figura del maestro in Messico, che è una cosa anche molto diversa da qui in Italia, cioè qualcosa che storicamente è anche legato comunque a, immagino, il periodo Cardenas e così via, cioè il maestro che andava a insegnare nelle comunità rurali più sperdute era visto come un luchador sociale in qualche modo. Sentite, quando c'è stata l'occupazione di Oaxaca nel 2006, insieme agli indigeni hanno avuto un ruolo forte, sopra il papel de los maestros por la lucha de Ayotzinapa, che significa maestro come luchador social, che è algo molto differente da qui de Italia. Y antes tú hablaste del hecho que después que habían ocupado los municipios en Guerrero, como rechazaban en una manera la posibilidad de construirse en autogobierno o algo así. Entonces, saber algo sobre eso, si tiene sentido. Mire, no fue rechazo, fue incapacidad. Porque no está entre sus planteamientos de hacer eso. È stato un rifiuto, è stata più un'incapacità, perché non è tra i loro obiettivi fare questo, cioè sviluppare un piano su un municipio occupato. A veces queremos que los países cambien y queremos participar en el cambio, pero cuando vienen las posibilidades realmente no estamos preparados para afrontar la realización de eso que queremos, de que quisiéramos, ¿no? A volte vogliamo il cambio dei paesi, ma quando questa possibilità si presenta non siamo realmente preparati per fare ciò. Per fare quello che vorremmo poter fare. Yo creo que la coyuntura que abrió Ayotzinapa con lo del 26 de septiembre le quedó grande al movimiento social en México. Credo que el precedente que ha segnato Ayotzinapa è stato un precedente molto forte, molto grande tra i movimenti sociali in México. No sé si han escuchado el dicho, la frase, te quedó grande la yegua o... ¿La qué? Es un animal. Te quedó grande la yegua. Una frase popolare. Ti è venuta grande la... Qual è la yegua? Il cavallo. Ah, la cavalla. Ti è venuta grande la cavalla. È uscita grande. Ti quedaron grandi los zapatos. No sé, scarpe. Sono grandi le scarpe. Fue demasiado para ti. No sé si eso sea... È stato troppo per te. Fue demasiado la posibilidad para el movimiento en México. Particularmente para el movimiento popular en Guerrero, que incluía maestros, campesinos y otras cosas. È stata troppo grande questa possibilità, soprattutto per un movimento che comprendeva maestri, contadini. Y obviamente también pues nuestros compañeros, que son los zapatistas, tampoco podían ir desde Chiapas a hacer autonomía a Guerrero, ¿verdad? E nemmeno i nostri compagni zapatisti avrebbero potuto arrivare fino a Guerrero per fare un movimento di indipendenza, perché tampoco iban a usurpar lo che estaban logrando otros, che era esa ocupación. Non potevano sì usurpare ad altri quello che gli altri stavano conquistando in quanto all'occupazione. Más bien depositaron su confianza en que estos que tenían ocupados los municipios pues iban a intentar algo más. I zapatisti quindi si fidavano nel fatto che queste persone avrebbero potuto fare qualcosa di più di quello che in realtà hanno fatto loro. E poi già les dije, no, non ho nada di eso. E al final non c'è stato niente di tutto ciò. La pregunta era, ma se in generale, io credo, sobre il papel de los maestros e la conjuntura di Ayotzinapa, considerando che los maestros sempre hanno tenuto un papel importante por las luchas sociales en México. Por ejemplo, en Ayotzinapa sí. Se estudia para ser maestro, ¿no? Y si Ayotzinapa tiene una tradición tan grande de lucha social también, es porque el maestro tiene un papel que no es solo una profesión entre otras, come podría ser en Italia o en cualquier otro lado. Es que en México el maestro tiene una especificidad más grande. Entonces, como creo que la pregunta fue más de, bueno, qué raro que maestros que tienen este papel hayan fracasado en esta autonomía de los municipios, pero más en general, además de los municipios, ¿qué papel tuvieron en la lucha más grande de Ayotzinapa en todo el país? Yo creo, ¿no? Es así. Sí, proprio bueno, a excepción de essere maestri non è semplicemente una professione come può essere qua in Italia, ma che storicamente è una figura che ha avuto una centralità proprio politica fondamentale anche in momenti di rottura radicale. Nel 2006 hanno occupato Oaxaca, la città di Oaxaca, la capitale dello Stato, e c'è stato un periodo di occupazione fortissimo in cui si è creata una comune difesa barricata dalla polizia federale, in cui i maestri avevano avuto una funzione forte. Miren, yo creo que tendemos a idealizar las luchas. Capito tutti. Ah, sí, tendiamo a idealizar la lucha. El problema de todos, de ustedes, de nosotros, de cualquiera, es que podemos alienarnos a la particular forma de pensar de una organización. El concepto de alienación viene bien a todos, ¿eh? Sí. Il problema è che possiamo alienarci a un certo modo di, organizzarci, questo è il nostro problema. Dentro de los municipios tomados había muchos maestros que fueron egresados de Ayotzinapa, que tuvieron su formación política en Ayotzinapa. Dentro i municipi occupati c'erano molti maestri che hanno avuto la loro formazione ad Ayotzinapa, quindi usciti da Ayotzinapa. Pero cuando llegan al magisterio, llegan a una nueva organización. Y tienen que pensar como esa nueva organización, ya no como Ayotzinapa. En parte, si quieren conservar su puesto, créanme. Pero cuando arrivano al magisterio, nel posto di lavoro, devono pensare in un altro modo, come chiede quel posto di lavoro, non più come Ayotzinapa. Ese es el problema en México, y lo vuelvo a repetir, hace un rato lo decía. El problema es que te alienas, pues, a la forma de pensar en una organización. Ahí no implica que los maestros no sean buenos, sino nos estén acompañando. Siempre nos han estado acompañando en Guerrero y en el país. Quindi questo è il problema, il fatto che la gente si alieni ai movimenti, ai modi di pensare. Questo non significa che i maestri non ci abbiano comunque sostenuto in tutto questo tempo. Sono sempre stati lì con noi e ci hanno sempre appoggiato. Pero hay una frase que dice mucho ayuda al que no estorba. Pero c'è una frase che dice aiuta colui che non ti intriga, non ti ha fastidio. Mucha ayuda, o sea, preferiríamos que no nos acompañara gente que en lugar de contribuir al proceso de cambio lo entorpece. Preferiremos que no nos acompañase gente que, anziché contribuir al cambio, ci impedisce. Nos encantaría que no fueran las organizaciones que buscan la hegemonía quienes nos acompañen. Ci piacerebbe che non fossero quindi le organizzazioni che cercano l'egemonia, chi ci accompagna. Pero estamos rodeados de eso. Ma siamo cerchiati da loro. Dígaselo a los maestros de Oaxaca, porque nosotros los respetamos mucho, pero no porque tomen las calles. Nosotros no luchamos por pavimento. Dítelo ai maestri di Oaxaca, ad esempio, perché noi li rispettiamo per quello che fanno, però non lottiamo per conquistare un pezzo di strada. Sì. ¿Saben por qué respetamos a los maestros de Oaxaca, los de Michoacán y tantitito a los de Guerrero? El motivo por el que respetamos a los maestros de Oaxaca, de Michoacán y un poco los de Guerrero. Porque una parte del magisterio de Guerrero, Oaxaca y Michoacán están construyendo educación alternativa. Solo por eso. Porque una parte de loro, del magisterio, está cercando de construir una educación alternativa. Y eso es más importante que las grandes manifestaciones. Eso es quitarle territorio, facultades al Estado. Y esto es mucho más importante que las grandes manifestaciones, porque se trata de togliere. Territorio. Ajá. Incapacidad al Estado. Por lo mismo que respetamos a los comunitarios, en haber dicho, ¿saben qué? Fuera policía, nosotros no vamos a hacer cargo de la seguridad. E per lo stesso motivo rispettiamo la polizia comunitaria perché si sono fatti carico della sicurezza. Solo che i maestri dicono, saben che? programa de la Secretaría de Educación Pública, gobierno y tu educación fuera nuestra educación, la educación alternativa, popular, autónoma. Quello che dicono i maestri è il fatto di respingere tutto quello che è il programma educativo che viene fatto dallo Stato, quindi i progetti dello Stato, e dire adesso noi imponiamo il nostro sistema educativo alternativo. Bueno, non siamo nadie, però rispettiamo più i zapatistas che qualche altro movimento nel paese. Nell'immaginario rispettiamo più di tutti, ovviamente, gli zapatisti in tutto il paese. E non è per quedar bien con ustedes. Non è per. Sì. Non è per quedar bien con los aderentes a la sexta, porque en el terreno de los hechos ellos construyen, los demás solo confrontan. Beh, non è per piacere a noi che lo dice, che sono gli zapatisti. Perché, ma perché nei fatti sono quelli che stanno costruendo. Bueno, se lo decimos porque conocemos el movimiento social en México de pies a cabeza, de norte a sur. Esas son nuestras conclusiones. Esa es la realidad de nuestro país y esa realidad no tiene que alcanzarnos a todos. Esto lo diciamo perché conosciamo da nord a sud la realtà dei movimenti nel nostro paese, e questa realtà non arriva a tutti. O sea que somos buenos para acusar, pero no para construir. Si dices al gobierno así no se hace, pues entonces hay que enseñarle cómo se hace. Questo perché siamo bravi ad accusare, però allo stesso tempo non sappiamo come proporre noi la soluzione, e quindi se dici così non si fa, beh, di come proponi tu una soluzione. E non quiero decir que pasemos de la protesta a la propuesta, que muchos dicen esa solución bien, ¿cómo dice? Bien fresita, no sé. Non è che stiamo passando dalla soluzione, dalla protesta a dare una soluzione. Porque tampoco les vamos a proponer a ellos cómo explotarnos. O sea, no, se trata de decir, ¿sabes qué? Fuera, nosotros vamos a hacerlo, ya estuvo. Y no gli suggeriremo certo cómo sfruttarci. Diciamo semplicemente, andatevene via, ahora noi faremo il nostro. Pero, pues, para que no nos dejen de apoyar los maestros, lo respetamos. Affinché non smettano di sostenerci i maestri, li rispettiamo. Dentro de ciertos límites, sus límites. Dentro del límite. All'interno del limite, nel loro limite. Algo es algo. Però non todo se Ayotzinapa e di questo movimento tiene una postura tan zapatista come tu, no? También somos como 5 o 6 los que sono. Cioè, la domanda è non tutti nella scuola di Ayotzinapa hanno questa idea rispetto agli zapatisti e ai maestri, così che lui ha detto prima. Sono 5 o 6. Por eso no hay que idealizar, lo vuelvo a repetir. Mis 43 compañeros eran chavos como cualquiera, ¿eh? Estamos buscándolos porque nadie se merece eso, ni el peor. No van a idealizar a nuestros compañeros, eran personas como cualquier otro. Y los estamos buscando simplemente porque ninguno necesitará el peor, ni el peor. Cuando los encontremos, no se hagan ilusiones de que van a ser como, pues como los demás, o sea, como ustedes, que se van a incorporar a la lucha. A lo mejor vienen bien miedosos, pues sabemos. O sea, no se hagan ilusiones de que van a transformar el país ellos, ¿no? Y cuando lo encontraremos, no se pueden hacer ilusiones de que diventino como noi, de lottatori, insomma, magari. No, ci possiamo fare l'illusione che loro cambino, cioè sì, il fatto di averli trovati cambi il paese, ma invece loro diventeranno come. No, dice che magari invece saranno pieni di paure, no? Che saranno miedosos. No sabemos, o sea, estamos luchando por la vida, por los derechos humanos, y en eso se lucha por cualquiera. Tampoco esperen que los padres, después de encontrar a sus hijos, vayan a transformar el país. Muchos de ellos quieren encontrarlos y ya, o sea, ya están cansados también. Y es comprensible. Los que queremos seguir con el alboroto somos nosotros. Stiamo lottando per i diritti umani, perché non crediate che tutti i padri, poi dopo aver incontrato i loro figli, vorranno continuare a lottare. Quelli che vogliono continuare la lotta siamo noi, loro probabilmente se ne andranno dopo averli incontrati, smetteranno. O sea, los que tenemos una conciencia de clase sabemos que esas cosas no las vamos a perdonar y que vamos a seguir molestando al Estado el resto de nuestras vidas. Noi che abbiamo una coscienza di classe sappiamo che questo non lo perdoneremo mai allo Stato e continueremo a dargli fastidio affinché a dargli fastidio sempre. Pero no esperen esto de mis compañeros desaparecidos ni de sus padres. non un aspettatelo da parte dei miei compagni scomparsi, né da parte dei loro genitori. No sé si se comprenda, pero bueno, esa es mi manera de explicar y yo sé que muchos, si me escucharan, lo tomarían muy a pecho y se ofenderían, pero así son las cosas. No sé. La pura verdad. Questo è il suo modo di parlare. Molti probabilmente si offenderebbero, lo offenderebbero un po' male, però questa è la verità. No hay que preguntarse qué van a hacer ellos, hay que preguntar qué vamos a hacer nosotros. ¿Qué va a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer la compañera? ¿Qué va a hacer cada uno de nosotros? Independientemente si los encontramos o no, el problema ahí está. Y no va a terminar si no hacemos algo nosotros. Non dobbiamo chiederci cosa faranno loro, ma dobbiamo chiederci cosa farò io, cosa farai tu, cosa farà lei e cosa faremo. Eso es lo que le decimos al Estado, lo mismo que le dijo Galileo a Galilei a quién sabe quién es, y sin embargo se mueve. Es la stessa cosa que ha detto Galileo a Galilei, nonostante tutto si muove. O sea, nos podrán decir que somos narcos, que somos revoltosos, que somos lo que quieran decirnos a través de los medios de comunicación, pero el problema de la desaparición forzada ahí está y no lo están atendiendo y no lo están resolviendo. Podrán decir cualquier cosa, que somos narcos, que somos rivoltosi, que somos ribelli, ma el problema alla fine è lì e non lo stanno risolvendo. Ya, basta.